24 mattino. Ma questi veneziani cosa vogliono? Se a Venezia arrivano troppi turisti è un problema per la città, perché è intasata, perché qua, perché là, non ce la fa sostenere, bisogna mettere delle tasse, bisogna regolare le entrate, sono troppi, sono qua e sono... Adesso col problema del coronavirus se ne esce quest'altro che hanno bloccato i voli e sono pochi i turisti, ma... Politica, prescrizione, dichiarazioni abbastanza, come dire, deliranti di alcuni rappresentanti politici, stendiamo un velo pietoso e mi unisco al suo sbroccamento. Grazie. Non so se si dica sbroccamento, forse si dice sbrocco. È dialettale, tra l'altro. Oh, un ascoltatore a sentirmi prima mi ha chiesto: ma sei milanista? Riferendosi al fatto che evidentemente la sconfitta al derby potrebbe avermi innervosito. No, sono romanista, però più o meno è la stessa cosa. La seconda parte di 24 mattino, 349-238-6666 per gli sms, i messaggi WhatsApp, anche audio, la vostra voce. Dai, dai, fatela sentire, forza. Al microfono sempre Simone Spezia per la parte dedicata alla rassegna stampa di questo martedì 11 febbraio. Adesso ci arriviamo, come vi ho promesso prima, la vicenda dei 600 imbucati Rai a Sanremo. E abbiamo ancora notizie, tra l'altro, delle nostre belle cronache romane, quelle sull'AMA, sull'azienda che si occupa dei rifiuti, e non solo, tante tante cose. Però come sempre iniziamo da un'occhiata alle scelte di apertura dei quotidiani, ossia su cosa puntano. Gran parte punta sul virus. Coronavirus, Avvenire, virus e antivirus, salgono contagi e morti a Wuhan, speranze da vaccino in sperimentazione. Il governo si accorge del virus, il titolo di Libero, sotto la mascherina, niente. La Verità, il coronavirus è fuori controllo e l'Italia fa l'inchino a Pechino, che fa pure rima tra l'altro. Corriere della Sera, virus, nuovi controlli in Italia. Il Manifesto, la febbre sale. Effetto virus, aiuti alle imprese, titola il Messaggero. La Stampa invece sceglie l'apertura politica con Italia Viva che sfiducia Bonafede. Conte a Renzi, se vuoi, vattene. La Repubblica sceglie il tema della produzione industriale, Industria Italia sotto zero, e poi ci mette anche nel titolo, nel sommario, la vicenda della prescrizione. Il Sole 24 Ore racconta degli incentivi bloccati e della corsa frenata delle start-up in apertura e parla anche ovviamente di produzione industriale, oltre a presentare un'intervista al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Il Giornale, Grande Fratello Grillino, spiano i nostri cellulari. Da marzo via libera ai Trojan, addio alla privacy. Questa l'apertura. Iniziamo dunque, come vi dicevo, e come sempre iniziamo da qualcosa di laterale, che troviamo solo parzialmente sulle prime pagine dei quotidiani. E la prima cosa è, direi, questa storia degli imbucati a Sanremo, che non è niente male, e il pezzo migliore forse lo firma Mario Aiello a pagina 13 del Messaggero, dove, insomma, il titolo è Sanremo, il festival degli sprechi, si indaga sui 600 imbucati Rai. Ma insomma è un po' un racconto anche che passa attraverso quello che si è visto dalle telecamere, no? La carica dei 600, scrive Aiello, è una commedia all'italianissima, che era molto semplice da spoilerare guardando il Festival degli Sprechi, con le telecamere aziendali impazzite e più concentrate sulla folla di famiglie e famigli che sui cantanti in gara, più vogliose di glorificare l'apparato dirigenziale amicale di potere sotto il palco, sicuro della propria impunità, come è tipico di ogni nomenclatura, che attente a ciò che accadeva sulla presunta scena principale. E comunque, è sceso ora in campo il collegio sindacale della RAI. Insomma, c'erano questi 600 e passa, 634 secondo i calcoli che girano, che erano là all'Ariston, a quanto pare senza alcun diritto, e il collegio sindacale della RAI, composto da un ispettore capo della Ragioneria Generale come presidente e da due alti funzionari del Ministero del Tesoro, ha deciso di fare le pulci all'amministratore delegato Salini. Chissà poi, insomma, e questo è un mio inciso, se tutto questo è anche un pezzo, no, di battaglie interne alla RAI, questo non lo sappiamo. Di certo appare che i 600 e passa imbucati ci fossero. Scrive insomma Aiello: la carica dei 600 è avvenuta oltretutto a scapito di un'azienda che già non se la passa bene, considerando i 65 milioni di perdite previste nel 2020. Il 21 febbraio, nel prossimo CDA, quello delle nomine importanti, toccherà dimostrare che gli imbucati non sono imbucati. Un problemaccio quasi più difficile che scegliere il prossimo direttore del TG1 e certamente più a rischio di impopolarità. I 630 imbucati della RAI. Rimaniamo a Roma, perché nei palazzi di Roma ovviamente che si svolge, insomma, tutta questa vicenda della RAI, però rimaniamo a Roma per altri palazzi. Quello dell'AMA, cos'è l'azienda che si occupa dei rifiuti a Roma, della raccolta dei rifiuti, è, come sapete, un tema che ci appassiona, no? Anche la condizione di bilancio di questa azienda, che ha visto una sequenza di cambi di vertici impressionanti, e adesso l'attuale amministratore unico Stefano Zaghis prova a risolvere il nodo di bilancio. Nodo di bilancio, però, si presenta un bilancio con 90 milioni di euro in rosso. Non era mai successo con nessuna amministrazione alla guida del Campidoglio. E ovviamente il problema diventa quello di come gestire un'azienda in estrema difficoltà, con mezzi vecchi, con controlli da fare sui netturbini che non scendono in strada, e tutto quello che i romani, e anche voi che avete ascoltato questa rassegna stampa più di una volta, conoscete perfettamente. Intanto, in ore nelle quali le discariche di Civitavecchia e Roccasecca hanno ripreso a smaltire gli scarti che lavorano i rifiuti di Roma, siamo a pagina 35 in cronaca di Roma del Messaggero, ma la mini crisi scattata dopo lo stop ad altri impianti ha lasciato parecchi strascichi in città. Nelle scuole, per esempio, ci racconta Pierpaolo Filippi, sempre a pagina 35 della cronaca di Roma del Messaggero, è SOS differenziata. In sostanza, nelle scuole, soprattutto del centro, ma non solo del centro, si stanno accumulando rifiuti come se non ci fosse un domani. Solo per citare qualche esempio, alla scuola Leopardi, plesso dell'istituto comprensivo di via del Parco della Vittoria, nella riserva naturale di Montemario, nessuno è passato a ritirare i rifiuti per 2 settimane. Oh, è una scuola elementare, 2 settimane con i rifiuti accumulati. Cumuli di sacchi di immondizia si sono formati anche nella scuola Guicciardini e nell'istituto comprensivo di via delle Carine, vicino al Colosseo, dove, aperte virgolette, sentite, sono stati costretti a stipare i rifiuti in un magazzino che ora sta tracimando, racconta l'assessore del primo municipio. Dunque, ci sono anche le foto ben illustrative di questi cumuli di immondizia all'interno delle scuole. Una Roma che evidentemente fatica ad uscire da questa vicenda dei rifiuti, e fatica anche ad uscire dalla vicenda dei rifiuti nei parchi. Beh, vi abbiamo raccontato ieri dei giardinieri che si rifiutano di raccogliere i rifiuti all'interno dei parchi di Roma, dicendo: non è un nostro lavoro, ci devono pensare i netturbini. E l'AMA, che ha 90 milioni di rosso, adesso dovrebbe mettere in campo dei netturbini per fare il lavoro, appunto, che dovrebbero fare i giardinieri. Qua Lorenzo De Cicco, a pagina 36 di Cronaca di Roma, ci porta su, appunto, i parchi invasi da rifiuti e i famosi giardinieri fannulloni o presunti tali, e delle ispezioni che vengono fatte, nelle quali vengono trovati vicino alle cataste di legna pronti per fare il barbecue. Tanto la persona che è stata trovata con le cataste per fare il barbecue, cos'è? Dice: siamo in pochi. E in effetti c'è solamente lui, gli altri due risultano inabili al lavoro per questioni di vario genere. E il mezzo non è stato sottoposto a revisione, e quindi nel parco a pulire non ci si può andare. le vicende romane e le vicende italiane. La pagina 16 del Corriere della Sera c'è una storia che mi viene da dire che è quasi dolorosa, ha a che fare con Amalia Bruni. Chi è Amalia Bruni? È una scienziata, una ricercatrice, ed è la donna che nel 95 ha individuato la presenilina, è il gene più diffuso dell'Alzheimer. Insomma, Amalia Bruni è una nostra eccellenza, un'eccellenza internazionale. Ma in che situazione si trova? Si trova in quella che doveva essere un'isola felice del Mezzogiorno, la Lamezia Terme, un laboratorio di neurogenetica nel quale lavora, nel quale sono finiti i fondi e quindi sostanzialmente questo laboratorio rischia di chiudere. I fondi necessari per la ricerca e per pagare il personale non arrivano più e così 4 biologhe se ne sono già andate. Altre 10 figure professionali, infermieri, informatici, psicologi, assistenti sociali in servizio all'Associazione per la Ricerca Neurogenetica hanno ricevuto lettere di licenziamento e dal 1 marzo prossimo resteranno a casa. Tutto ciò, racconta Bruni, accade tra l'indifferenza della politica regionale, dei commissari prefettizi che guidano l'azienda sanitaria di Lamezia Terme, siamo in Calabria, commissariata per mafia, e del generale Saverio Cotticelli, commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro della sanità in Calabria. Sono arrivati 200.000 euro nel 2018, ma insomma questi soldi sono già finiti e questo laboratorio dove sta un'eccellenza nazionale rischia di chiudere. Siamo sul Corriere della Sera, a pagina 16. E a pagina 19 di Repubblica invece si torna su una vicenda che in parte avevamo già affrontato, è la voce dell'uomo protagonista di questa vicenda, l'avete sentita anche nella nostra radio, l'aveva intervistato qualche tempo fa Alessandro Milan, ed è la storia di Marianna Manduca e di Carmelo Calì. Chi è Marianna Manduca? Marianna Manduca è una donna che nel 2007 è stata ammazzata dal padre dei suoi figli, Saverio Nolfo, i figli sono 3. E che cosa successe? Successe che i servizi sociali chiesero al cugino di Marianna, Carmelo Calì, di prendere in custodia i figli, di prendere in affido i figli, e a quel punto diventarono figli suoi, decise di tenerli, decise insomma di mantenerli lui, solo che a quel punto la famiglia diventava una famiglia di 7 persone, una famiglia con 5 figli, si aggiungevano i 2 figli di Carmelo Calì, appunto i 3 figli di Marianna, che pure lui non vedeva da quando aveva 5 anni, insomma un gesto di buon cuore. Cosa successe però? Che Marianna Manduca aveva denunciato il marito 12 volte, racconta Maria Novella De Luca, pagina 19 appunto del quotidiano La Repubblica, e Carmelo Calì disse, beh, allora forse i magistrati qualche colpa ce l'hanno in tutto questo, e decise appunto di chiedere un risarcimento per la mancata protezione arrivata a Marianna Manduca. In primo grado gli fu data ragione, 250.000 euro con i quali Calì comprò un'abitazione adesso adibita ad Airbnb a Bed and Breakfast, con la quale mantiene questa famiglia ormai molto larga, ma la Corte d'Appello gli diede torto e adesso dovrebbero restituire questi 250.000 euro. Carmelo Calì adesso è in fase di, appunto, sono la famiglia, è la causa è in Cassazione. Questi 3 ragazzi che oggi hanno 18, 17 e 15 anni, appunto, o la loro famiglia potrebbe essere costretta a restituire questi 260.000 euro. Affermano i giudici d'appello, sostenuti in questo caso dalla procura in Cassazione, che la volontà omicida di quell'uomo fosse talmente forte che anche se avessero protetto Marianna, lui l'avrebbe uccisa lo stesso. Pausa. Mattino. Ma scusa Spezia, ma ti sembra possibile che nel 2020 Roma sia l'unica città ancora coi cassonetti in giro per le strade? Prima la RAI era in deficit perché avevano la scusa che pochi pagavano il canone, adesso tutti lo paghiamo il canone e le cose non sono cambiate. Ma è per questo allora che quelli che riescono a evadere le tasse non vogliono pagarle. E va bene, le vostre idee, le vostre opinioni. Beh, su Roma, in realtà, allora, ad essere franchi, il tentativo di creare un sistema di raccolta porta a porta è partito. Poi che stia funzionando, questo è un altro conto. Spesso abbiamo raccontato anche di quelli che, dove c'è il porta a porta, senza alcuna vergogna, per non fare la differenziata, fanno i sacchi comuni e vanno nel quartiere vicino dove ci sono ancora i cassonetti e li sbattono e sbattono la roba là. Va bene, si fa per dire, Veniamo alla parte centrale della nostra rassegna stampa, nella quale, se consentite, invece di partire da tutta la vicenda, prescrizione, Renzi, la minaccia di sfiducia a buona fede, il vicolo cieco, così viene definito per esempio da Massimo Franco sul Corriere della Sera, nel quale sembrano essersi ficcati Italia Viva e il Movimento 5 Stelle, partiamo da qualcosa di molto concreto, che sono i dati sulla produzione industriale. Lo avete sentito anche in GR24, i numeri sono quelli che sono, la produzione industriale torna a scendere dopo 5 anni. Attenzione, i cali sono iniziati già all'inizio di quest'anno, insomma, quindi non è che sia solamente, come scrive qualche giornale, un effetto di questo governo. Fatto sta che la situazione è oggettivamente difficile, complicata e rischia di essere aggravata naturalmente da quello che sta succedendo in Cina con il coronavirus. Il pezzo di analisi più approfondito lo trovate sul Sole 24 Ore, a pagina 3, lo firma Luca Orlando, che ci racconta appunto come la produzione industriale torni a scendere dopo 5 anni. Nel 2019 la diminuzione è stata del 4,3% e a dicembre la flessione più forte dal 2018, male tutti i settori, le uniche eccezioni sono il settore dell'elettronica e quello dell'alimentare, che forse è il vero tema, questo della produzione industriale, sul quale ci si dovrebbe concentrare. Difficile del resto, scrive Orlando, prevedere dati diversi dopo aver visto la stima Istat per il PIL del quarto trimestre, un calo dello 0,3%, condizionato in particolare proprio dalla riduzione del valore aggiunto dell'industria, che i dati di dicembre confermano. A frenare le imprese un mix di fattori, in primis di natura internazionale. Dicembre è stato pessimo anche per il resto dell'Europa, certamente, insomma c'è tutto quello che sappiamo, la questione dei dazi, però fatto sta che la situazione è quella che e viene ben illustrata e affiancata da un pezzo di Carmine Fottina che ci racconta altra questione per certi versi tipicamente italiana e tipicamente di ritardi, no, che ci sono sulle cose che si fanno, sono gli incentivi bloccati per le start-up innovative. Cosa era successo? Era successo che gli incentivi fiscali per le start-up innovative erano stati varati con la manovra finanziaria di 2 anni fa, poi erano stati immediatamente bloccati dalla Commissione europea, bisognava varare un nuovo provvedimento che fosse in linea appunto con quello che prescriveva Bruxelles, questo provvedimento non è mai stato varato e quindi i nuovi incentivi hanno spiazzato molti potenziali investitori e la corsa delle start-up, ci racconta Carmine Fottina, è frenata. Economia che rischia di risentire anche appunto dell'effetto del coronavirus, torneremo a parlarne alle 8:20, ci occuperemo soprattutto del settore del lusso e della moda, in questo momento vive il problema, no, di rapporti con la Cina che sono appunto piuttosto complessi. Ci si concentra su questo tema, il Messaggero, siamo a pagina 5, l'effetto virus sulla crescita, sono in arrivo misure di sostegno per le imprese, lo ha dichiarato ieri il ministro Patuanelli, oggi in una intervista proprio al Sole 24 Ore il ministro degli esteri Luigi Di Maio annuncia 300 milioni in arrivo per le imprese esportatrici. Diciamo sono 300 milioni in generale, non hanno a che fare solamente con il coronavirus, però certamente serviranno a sostenere il settore in una fase piuttosto complicata. Ci saranno misure di sostegno anche per chi importa, perché ricordiamoci una cosa, lo racconta il Messaggero appunto con Rosario Di Mito a pagina 5, perché ricordiamoci una cosa, e qua ci sono anche le importazioni dalla Cina, non solamente di beni finiti ma anche di beni che servono a costruire altre cose, a costruire, a realizzare altri beni. Insomma, c'è un problema di fornitura, rischia di esserci un problema di fornitura per le nostre fabbriche. Arriva anche, ci racconta Di Mito, una prima stima di massima dall'istituto, dall'ufficio studi di Intesa San Paolo, guidato da Gregorio De Felice, che ha elaborato una previsione fresca di stampa e che dice che, insomma, lo shock potrebbe avere impatti marginali fuori dalla Cina, uno shock di 3 punti sui consumi in Cina nel primo trimestre, quasi interamente riassorbito nel secondo trimestre, ovviamente, posto che la questione si concluda rapidamente. Messaggero, che ci riporta anche a pagina 5 il racconto da Roma di questi ragazzi cinesi aggrediti in strada da una specie di baby gang, da un gruppo di bulli cinesi di merda, andate via, avete il coronavirus, insulti, minacce, brandendo bottiglie rotte, lancio di sassi, una sorta di pomeriggio di follia. E la cosa bella, se vogliamo, in tutto questo è l'intervento dei passanti per difendere questi ragazzi, che poi però si sono dovuti rifugiare in un negozio. Una pausa e poi arriviamo alla politica. Mattino. Spezia, il tuo sfogo non mi è piaciuto. Comunque candidati, fai politica, mettiti in campo e proponi qualcosa, perché la democrazia richiede tanta partecipazione, tanto impegno, e i cittadini italiani non hanno tanta voglia di fare questo, hanno fretta di avere i risultati, ma ognuno di noi dovrebbe impegnarsi di più nel proprio piccolo, più che lamentarsi sempre. Ma, e io devo dire la verità, sto bene qua. Candidature no. E poi abbia pazienza, qua ci siamo limitati a sottolineare che ci pare un po' troppo tutto fermo, e impiegato e incastrato in tatticismi. Veniamo a qualche esempio di tutto questo. Pagina 6 del Corriere della Sera. Titolo: Renzi, attenti o sfiduciamo Bonafede. Per il PD e il Movimento 5 Stelle è una minaccia al governo. Cosa succede? Succede che c'è questo emendamento sulla prescrizione che dovrebbe introdurre le variazioni alla riforma Bonafede decise all'interno del vertice di maggioranza, solamente che lo si vuole mettere all'interno o con un decreto a parte, che difficilmente il Presidente della Repubblica farebbe passare, oppure all'interno del decreto mille proroghe. E su questo fronte Renzi è contrario e ha detto: se usate, non è in sé contro, cioè l'idea di sfiduciare Bonafede non è in sé contro il questa modifica della riforma, ma è contro lo strumento utilizzato. L'ex premier appunto è contro l'emendamento sulla prescrizione e c'è il Movimento 5 Stelle con Crimi che dice inseguono la crisi, lo dicano. E ovviamente troviamo tutti retroscene, a partire da quello di Maria Teresa Meli, sempre a pagina 6 del Corriere della Sera, il quale dice che appunto Renzi è infastidito perché stanno circolando delle voci secondo le quali all'interno del palazzo si preparerebbe una truppa di responsabili, appunto i responsabili, coloro che potrebbero sostenere il governo nel caso che Italia Viva mollasse appunto sul tema della prescrizione. Nel PD qualcuno dice: lui gioca a poker pensando che tanto nessuno voglia andare alle elezioni, ma prima o poi forse alle elezioni ci si potrebbe arrivare, perché un po' tutti i giornali sottolineano, che lo fa anche il Sole 24 Ore nelle sue pagine di politica, che è ben difficile che Sergio Mattarella possa far creare, per così dire, far nascere un altro governo con una maggioranza diversa e invece non portare il paese alle urne. Qua l'altro retroscena riguarda il Presidente del Consiglio Conte, a pagina 3 della Stampa, la tentazione del Premier di dire a Renzi: se vuole andare se ne vada, è stanco degli avvertimenti del leader di Italia Viva. Così sfiducia il suo stesso esecutivo. Altro contro retroscena, Renzi sempre che dice se ci vuole buttare fuori è viva, così non metto la faccia su questo governo. E quindi, insomma, questa è la situazione, almeno stando ai retroscena e anche a un po' di dichiarazioni che abbiamo visto in giro. C'è una notevole tensione politica anche in Germania e va segnalata, e vanno segnalate un po' di pagine di giornali su questo, perché è un po' il segno di un passaggio epocale. È la fine ovviamente dell'era di Angela Merkel e l'arrivo sulla scena, come ormai sapete, appunto, di Kramp Karrenbauer, chi è appunto la donna che doveva succedere ad Angela Merkel, anzi che è succeduta ad Angela Merkel alla guida della CDU. Ebbene, Annegret Kramp-Karrenbauer ha deciso di lasciare l'incarico. Tutto questo dopo la confusione della quale vi abbiamo raccontato, quella in Turingia dove il governatore della CDU, ossia del partito di Angela Merkel, è stato eletto anche con i voti dell'estrema destra di Alternative für Deutschland. Ebbene, tutta una serie di gaffe, una serie di problemi, non ultimo questo, ha fatto sì che appunto Annegret Kramp-Karrenbauer lasciasse la guida del partito e l'ipotesi di fare la cancelliera. Ottimo il commento di Attilio Geroni, pagina 18 del Sole 24 Ore, che ci dà un po' di spiegazioni, un po' di dritte su tutto questo, no? Perché dice che l'offerta dei due grandi partiti popolari tedeschi, CDU ed SPD, non è più in grado da tempo di rispondere alla domanda politica degli elettori, sempre più frammentata e polarizzata. Finora a pagarne le conseguenze in termini di consenso sono stati soprattutto i socialdemocratici, che nei sondaggi a livello federale devono contendersi il terzo posto con Alternative für Deutschland, mentre i Verdi sono diventati stabilmente la seconda forza politica della Germania. Ed è qua, appunto, sulla base di tutto questo che cambia tutto. E nel disastro nel quale si è cacciata la classe dirigente politica tedesca è suggestivo pensare che possa essere la stessa Angela Merkel, in via del tutto emergenziale per un periodo limitato di tempo, a traghettare di nuovo la CDU. Vedremo se sarà effettivamente così. Abbiamo ancora un paio di minuti e voglio chiudere con un pezzo dal quotidiano Libero. È il pezzo di Filippo Facci che mette insieme due elementi. Uno lo abbiamo affrontato anche ieri alle 8:20 ed è il tema della lentezza della nostra giustizia, e l'altro qual è? È una questione che ha a che fare con come ci muoviamo. L'incidente dell'altro giorno, il deragliamento del treno Frecciarossa, la morte dei due macchinisti, i 31 feriti. Il titolo di Libero a pagina 6 è «L'inchiesta va rallentatore e l'alta velocità blocca l'Italia». Il punto qual è? È che in attesa che la farraginosa macchina giudiziaria faccia il suo corso sull'incidente nell'Odigiano, uno svincolo chiave resta inagibile. Riflettiamo su alcune espressioni che abbiamo letto e riportato, scrive Facci: tempi ristretti, nel miglior modo possibile, non appena possibile, indagini serrate, non più di due giorni. Cioè, è come se la procura avesse un complesso di fondo, come se avesse cioè la coda di paglia, il timore di figurare troppo lenta, comoda, macchinosa, burocratica, incurante dei disagi straordinari che in ogni caso comporta l'interrompere una tratta fondamentale in questo paese stretto e lungo. In effetti, poste le opportune differenze, è come se avessero interrotto l'autostrada del sole. Ma non c'è ragione, ben inteso, di dubitare della buona volontà della magistratura e del suo impegno per fare il tutto in più in fretta possibile. Infatti è su questo possibile che vanno i nostri dubbi, non sulla buona volontà dei magistrati di farlo. Potrebbero anche non averci dormito la notte, per quanto ne sappiamo. Perciò la domanda è: quanto è possibile essere veloci con un sistema di accertamento penale come il nostro? Ed è con questa domanda che vi lascio. Ci ritroviamo dopo GR24 con Maria Latella. Parleremo del coronavirus, degli effetti economici e poi intervisteremo la ministra Teresa Bellanova, ministra delle politiche agricole ed esponente di Italia Viva. A tra poco.